Evil, questo è Jolly Roger. Yes people, questo è Jolly Roger, puntata di venerdì 3 marzo 2023 e siamo arrivati a questo nuovo fine settimana, nuovo mese, siamo arrivati a marzo, anche se comunque la primavera è ancora abbastanza lontana vista la settimana trascorsa almeno qua a Roma. Iniziamo questa puntata ricca di novità. Intanto saluto tutti gli amici e tutte le amiche del Brancaleone e soprattutto le nostre amiche del Gas. Presto continueremo a dividere lo spazio fisico insieme a loro, ora ci separano solo due piani, ma va bene così, ci si adatta e si va avanti. Puntata che vede la presenza della nostra amica Carlotta, anzi amica, ormai amica di tutte, Jolly Roger, che è venuto a trovarci, del Terzo e dell'Orazio, che salutiamo, così come salutiamo la professoressa Mirra, che ha reso partecipe la collaborazione fra la Terza e Jolly Roger, e questo poi ne parleremo magari durante la puntata. E puntata del 3 marzo, che è la giornata mondiale della natura, l'affronteremo più tardi, e poi parleremo durante l'arco della puntata dei selfie, della storia dei selfie, di cosa sono i selfie, insomma una puntata ricca di cosette. Intanto iniziamo con il nostro primo pezzo e poi torniamo in diretta qui su pirateradio.it. Around the world. Jolly Roger, come tutti i venerdì dalle 17 alle 18, fra i vari saluti saluto il Gemini Network che ci supporta, saluto gli amici e le amiche di Radio Grad che ci ricondividono e ci ritrasmettono tutti i mercoledì sempre dalle 17 alle 18. Nel frattempo è arrivato anche il nostro amico Lucone, ci è rivenuto a ritrovare anche questo venerdì il nostro amico Lorenzo, insomma. Da che ne eravamo tre, adesso siamo diventati più di 33, quindi ci piace così. E iniziamo questa puntata, come detto all'inizio, siamo arrivati a marzo, il 3 marzo, la giornata mondiale della natura. E passo il mic al nostro amico Luca che ci racconta alcune cosette a riguardo. Ciao a tutti e buonasera, io sono Luca e benvenuti sempre qua al Jolly Roger. La Giornata Mondiale della Natura della Fauna Selvaggia è promossa a livello internazionale delle Nazioni Unite per celebrare fauna e flora del pianeta e il contributo fondamentale che le specie selvatiche danno alla nostra vita e alla salute degli ecosistemi. Il wildlife, la selvaggia vita, conservation e a riflettere sulla nostra responsabilità di proteggere la magnifica e diversa della vita sulla Terra. Quest'anno inoltre si festeggiano i 50 anni della CITES a Washington DC negli Stati Uniti. Buona giornata della natura a tutti. Ok, noi mandiamo il pezzo, scelto sempre dal nostro amico Luca. Dici, presentaci il pezzo e poi ritorniamo in diretta. Sam Smith, Kim Petras, Justin Bieber, Bruno Mars. Girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Drop it. wanna drop the attic. Give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gonna need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. And he got me Prada, get me Miu Miu like Rihanna. He always call me, cause I never cause no drama. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, puntata ricca, puntata anche ricca di ospiti, di persone che sono presenti qua in studio, ma a noi piace così. Allora, come detto a inizio puntata, parliamo un po' dei selfie, di questo fenomeno che si è diffuso con il tempo. I selfie non sono nient'altro che degli autoritratti fotografici che si realizzano con cellulari, tablet e compagnia bella, e sono, si distinguono dagli autoritratti fotografici che per l'appunto sono composte da pose e compagnia bella. Anche nei selfie si fanno le pose chiaramente, però sono pose diverse, c'è una diffusione anche della foto che può avvenire tramite e avviene tramite non solo canali social, ma esistono ormai gruppi su gruppi. E a riguardo noi salutiamo tutti gli amici del gruppo di Telegram di Pirate Radio. E quindi, parlando di selfie, siamo sicuramente noi di Jolly Roger una generazione che cresce ed è cresciuta con i selfie. Ad esempio io e Matteo ci frequentiamo solo da 7-8 anni, abbiamo un book fotografico di selfie, però è bello perché insomma ci ricordano alcuni momenti, che è proprio quello che è dei selfie, insomma. Quindi introduciamo questo nuovo argomento e chiaramente passiamo al nostro primo pezzo e poi partiamo a bomba con i ragazzi che racconteranno il loro modo di vedere i selfie. E andiamo così, primo pezzo per noi sui selfie. Darvi l'esercito del selfie, il ballo dell'estate. Hai presente la luna e sabato sera? Intendo quella vera, intendo quella vera. Hai presente le stelle e le torri gemelle? Quelle che non esistono più, quelle che non esistono più. E se ti parlo di calcio? E se ti suono un po' il banjo? Dici che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio. Ma se ti porto nel bosco? Mi dici portami in centro? Perché lì non c'è campo, paura fuori di testa come l'ultima volta. Siamo l'esercito del selfie, di chi si abbronza con l'iPhone, ma non abbiamo più contatti, soltanto like a un altro post. Ma tu mi manchi, mi manchi, mi manchi, mi manchi in carne ed ossa, mi manchi nella lista delle cose che non ho, che non ho, che non ho. Hai presente la notte del sabato sera? Intendo quella nera, intendo quella nera. Hai presente la gente che corre mutande? Dice che non esistono più, dice che non esistono più. E se ti parlo di sesso, carta, forbice o sasso? Dice che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio. Ma se ti porto nel parco, mi dici portami in centro? Perché lì non c'è campo, può far fuori di testa come l'ultima volta. Siamo l'esercito del selfie, di chi si abbronza con l'iPhone, ma non abbiamo più contatti, soltanto like a un altro post. Ma tu mi manchi, mi manchi, mi manchi, mi manchi in carne ed ossa, nella lista delle cose che non ho, che non ho, che non ho. Arrivederci e alla prossima estate. Ricordate. E ritorniamo in diretta. Questo è Jolly Roger. Settimana scorsa, appunto, parlavamo di tormentoni. Questo è stato un tormentone e, appunto, parla di selfie e di quello che si sta parlando, appunto, in questa nostra puntata. Abbiamo Carlotta come nostra ospite qui in radio del terzo E. Ora quindi mi sembra giusto passare il microfono ai giovani, largo ai giovani. Accontate tutti. Lei è Carlotta, mia compagna. In realtà loro sono i miei amici di radio, il Giorgio, Luca, Ali, Pietro e Anna Chiara. Uno, Carlotta, ti piacciono i teffi perché? Allora sì, mi piacciono molto perché così posso farmi le foto e tenere dei ricordi anche di me stessa. Piano i tempi perché ci può dire. Mi piacciono i selfie perché? A me piacciono i selfie perché è una cosa che mi rappresenta. Ora intervengo io, il vecchio della situazione, anche se non sei uno che se fa fare foto, diciamolo, eh. Ora arriva Sir Mick. Ti piacciono di tavi perché l'idea? A me sì, mi piacciono i selfie anche, però solo che a me i selfie me li faccio da sola. Però se vuoi, alla festa ce la facciamo insieme. Ce la facciamo insieme. Ce la facciamo insieme una volta alla festa. Ti do 5 euro, eh? Sì! Dai, 5 euro! E dai, Dai. Vai con la prossima domanda. Ci puoi dire come fa un selfie? Allora, prendi il telefono, lo metti davanti, deve essere dritto, e poi ti fai le foto in base a quale lato vieni meglio. E soprattutto non ti deve tremare la mano. Soprattutto non ti deve tremare la mano. La re. Fai. Ti può dire come fai un selfie, Lu? Allora, i selfie si fanno, vai con nella fotocamera, premi il pulsante, fai con la fotocamera esterna o interna, fai il click e tu fai la foto. Ora ti ripasso il mic. La 4, ci puoi dire, no, ti può dire come fai un selfie? Come ti fai un selfie? Allora, i selfie si fanno, praticamente si prende il telefono e si clicca con il c'è un pulsante bianco e si clicca il pulsante bianco, la foto che c'è, che si afferma dal pulsante bianco, perché prende la foto esattamente, e tu la fai. Perfetto, e intanto queste erano le prime considerazioni su selfie. Mandiamo un pezzo che Matteo dedica a tutti i suoi compagni di classe, la terza E dell'Orazio, e poi ritorniamo sempre in diretta parlando e continuando a parlare di selfie. Ho una cosa da dirti da tempo, ma non ho mai trovato il momento. Potrei farlo qui, non mi importa se questa gente mi guarda ridendo. Giuro l'altra notte è stato bello, non esci più dal mio cervello. Non basterebbe un solo anello, tu vali più di ogni gioiello. E chissà se, quando parti poi ritorni qui da me. E dimmi se, questo sentimento vale anche per te. Balla finché, rimanendo ad occhi chiusi, mi dai un bacio e poi ti scusi. Resta qui solo un secondo in più perché ti volevo dedicare mille canzoni scritte a una chitarra da accordare. In quelle notti fino a quando sale, sale il sole per l'incontro delle ore. Ti volevo dedicare quello che provo e non so cos'è. Diciamo per sempre perché mai nulla dura in eterno. Se credi troppo nei sogni poi ti risvegliano sul più bello. Tutto sembra un déjà vu, mille parole alla TV, Coca-Cola e Malibu, balliamo come una tribù. E chissà se quando parti poi ritorni qui da me. E dimmi se questo sentimento vale anche per te. Balla finché, rimanendo ad occhi chiusi, mi dai un bacio e poi ti scusi. Resta qui solo un secondo in più perché ti volevo dedicare mille canzoni scritte, una chitarra da accordare. In quelle notti fino a quando sale, sale il sole per l'incontro delle ore. Ti volevo dedicare quello che provo e non so cos'è. Serenata serie nera, serie yeah. Non seguo la moda ma ritorno vinile. Non so se Maradona era meglio di Pelé, ma il calcio femminile è di sicuro più virile. Donne contro maschi, servono entrambi, anche se diversi come gli occhi degli aschi. Amo gli incostanti, parti come Heidi, ti sfogli come Miley, tutta fatta come Billie Eilish. Quando sei vicina sei polemica, quando sei lontana sei l'America. Fai scorrere sangue nella mia vena poetica, come Lucio dalla parte la mia mano che ti fa una dedica. Penso a te, le parole scono in metrica, è facile trovarle come l'erba su Telegram. Qui le bugie sono in vendita, tu sei fiero della verità, meglio del Pentotal. La sensazione che a volte mi sale è che stiamo bene come spiaggia e mare, come barche all'orizzonte. Ci perdiamo tra le onde, bene e male si confonde tra le nostre ombre. Wow, fino a quando sale il sole e perdi il conto delle ore, ti volevo dedicare quello che provo, non so cos'è. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger. Nel frattempo è arrivato anche il nostro amico Damiano, siamo veramente sold out questo pomeriggio. E infatti si diceva, visto che si parla di selfie e siamo tutti quanti e anche di più, faremo un selfie a fine puntata e magari qualche social lo troverete, così vedete quanto siamo belli e divertenti. E detto questo, torniamo a bomba sulla puntata, quindi ritorniamo con i ragazzi e le loro considerazioni sui selfie. Guarda, Gittorio, con chi fai i selfie? Di solito li faccio con i miei amici e con i miei familiari. Poi, guarda, Gittorio, chi fai i selfie? Allora, casomai mi capitano con i miei fratelli, che giustamente voglio tanto bene, ma casomai mi fa piacere farli anche con la ragazza di mio fratello Lavinia e con Matteo, mi fa piacere, ma anche con il cosiddetto Pietro che sta qua accanto a me, gli voglio tanto bene. Ti ripasso il mic, Matte. Gittorio, con chi fai i selfie lì? Li faccio... sì, li faccio con i miei, con mamma, con papà. Cioè, allora, sì, li faccio con papà e mamma. Con le persone più importanti. Con le persone più importanti. Ci avevamo un selfie insieme? Ovvio. Certo. Ci facciamo un selfie insieme? Sì. Ovvio. Ovvio. E famo sesto selfie. E dai, eh! Ya, yeah, sì! Possiamo fare un selfie con i miei amici della radio? Sì, sì. Sì. Dopo lo facciamo e lo condividiamo. Ci avremo anche una pagina. Qual è il tuo cantante preferito? Allora, il mio cantante preferito è Lana Del Rey, una cantante inglese, però sento anche altri cantanti, diciamo. Qual è il tuo cantante preferito, Luca? Ce n'ho molti, caro Matteo, ma diciamo che ascolto un po' James Hype. Anzi, ti dico la verità, devi sapere che James Hype non è proprio un cantante, è un DJ britannico, quindi mi piacciono molti, come Miggy della Rosa. Quale tuo cantante preferito? Qual è il tuo cantante preferito? Annalisa. Che troppo di moda ti piace?

non in diretta, si parlava di autogol e compagnia bella, ma ritorniamo a bomba sulla puntata che è quella dei selfie e ripasso il mic al nostro amico Matteo. Quale tua categoria? Io una canzone preferita non ce l'ho proprio. Mi dispiace. Tua categoria è Alice. Ali. Qual è la tua canzone preferita? Ti abbiamo detto Annalisa. Bellissimo. Di Elisa. Quale è la tua categoria, Luca? Guarda, Matte, ce ne sono molte. Tra cui mi piace Contrabbando, che ho detto poco fa. Poi mi piace Ferrari. Mi piace. Guarda, ti giuro, la mia preferita in assoluto è Brividi di Mahmood e Blanco. Ma non era Cenere. Ah, è vero, scusate, Cenere di Lazza. Aiutami a sparire come cenere. E ora passo il mic a Pietro. No, ripasso il mic al nostro amico Matteo. Oggi è proprio caciara. Ieri puoi fare me? Ovvio. No. Certo. Sì. Ovvio. Apriamo la lettera così faccio entrare Carlotta. No. Volete fare? Allora, nel frattempo mancava anche il nostro intervento del nostro amico Damiano, che anzi detto la voce impostata di Jolly Roger. Ora chiediamo al nostro amico Damiano dicci cosa pensi tu dei selfie, ti fai selfie, quando li fai, con chi li fai, perché li fai, quando li pubblichi. Allora, buonasera a tutti. E, i selfie li faccio di solito quando, ma dipende molto da un contesto, se sto in un bel posto dove farli, anche se in realtà mi piace più farmi fare foto da qualcuno, e in realtà le pubblico più, diciamo, sullo stato di WhatsApp, non sono un grandissimo amante dei selfie, però mi piace farli lo stesso, ecco, come dire. Quindi non condividi su social, non hai Instagram, hai solo qualche altro social, oppure la vita social dal punto di vista selfie non ti interessa? Ma diciamo che in realtà non qualche volta, ma non sono un amante del, come dire, del pubblicare in generale, ecco. Perfetto. E questo è il nostro amico Damiano. E noi passiamo un altro pezzo che ci porta comunque Carlotta, che è Tatuaggi Psicologi. È il gruppo Psicologi. Sorrido se tu mi sorridi. Mi hai regalato nuove cicatrici. Le coprirò con nuovi vestiti. Vivo da solo da un paio di mesi. Ma era meglio restare bambini. Per giocare senza stare estesi. E litigare rimanendo amici. Questa notte dormo nel letto di un ospedale. Solo per vedere se mi passerà a trovare. Dicono che se non salti non riesci a volare. E salirei più in alto solamente per provare. Ho più sigarette che persone al mio fianco. Ultimamente sto provando a smettere di fumare. Ma quando non ci sei passo le mie notti in bianco. Ultimamente sto provando a smettere di respirare. Quanto tempo per dimenticarmi delle notti in strada. Fermi a guardarci. Più che sbagli siamo tatuaggi. Più che sbagli siamo tatuaggi. Quanto tempo per dimenticarmi del male che hai fatto in tutti questi anni. Più che sbagli siamo tatuaggi. Più che sbagli siamo tatuaggi. Più che sbagli siamo tatuaggi e sono così grandi riesco a confrontarli, ma con le bugie ho sempre pensato che ci sia sempre un fondo di verità. prendimi per come sono pure no, perché mi hanno sempre lasciato giù a metà strada. Se mi guardo indietro vedo resti di un brutto sogno, mica di una carta prepagata. E sono stanco di cercarti tra i vetri rotti della mia piazza. Sono stanco di cercarmi tra i bicchieri bevuti spesso troppo. E se domani vorrai starmi lontano, mi scontrerò con la tua mano. A volte due anime unite fanno più chiasso di tutte le stenate suonate col piano. Quanto tempo per dimenticarmi delle notti in strada fermi a guardarci. Più che sbagli siamo tatuaggi, più che sbagli siamo tatuaggi. Quanto tempo per dimenticarmi del male che hai fatto in tutti questi anni. Più che sbagli siamo tatuaggi, più che sbagli siamo tatuaggi. Cerco nel letto un ricordo lontano, come l'anno scorso mi tenevi per mano. Ora non ci chiamiamo e non c'è più mio. Ed il tempo passa, giurarci in eterno, è inciso per sempre sopra la mia pelle, come tatuaggi che non vanno via. Ma ti ricordi quanto tempo per dimenticarmi delle notti in strada fermi a guardarci. Più che sbagli siamo tatuaggi, più che sbagli siamo tatuaggi. Quanto tempo per dimenticarmi del male che hai fatto in tutti questi anni. Più che sbagli siamo tatuaggi, più che sbagli siamo tatuaggi. Quanto tempo per dimenticarmi del male che hai fatto in tutti questi anni. Più che sbagli siamo tatuaggi, più che ritorniamo sbagli in diretta, siamo tatuaggi. Questo è Jolly Roger, si parla appunto di selfie. Io da generazioni un po' precedenti a quelle di Alice, Matteo, Carlotta e Luca, Damiano e Lucone, così l'ho nominati tutti, non sono un grande amante dei selfie, nel senso che li faccio, principalmente li faccio con la mia cagnolina, che saluto Sofì, che non so se sia all'ascolto, o la gatta, questi sono gli unici selfie che mi concedo. E ho anche condiviso, diciamo, quindi questo è quello che volevo dire sui selfie. Siamo contenti che ci è venuto a trovare Carlotta. Ora gli passo un attimo il microfono. Questa è una cosa che non abbiamo preparato, però mi piacerebbe che da esterna, qual è, almeno per ora, poi magari appunto parleremo un attimino di quelli che sono i progetti futuri di Jolly Roger prima o poi. Però appunto mi piacerebbe che lei raccontasse questo anche in un 30 secondi con una sola parola di questa esperienza folle che è quella di Jolly Roger. E gli passo subito il mic. Così lo metto. Allora, diciamo che l'arrivo è stato un po' difficile perché non sapevo dove stesse la radio e quindi sono arrivata all'ultimo piano davvero dove ci stavano tutti quanti i mobili e poi ho notato che non era quello. E sono arrivata e mi sono divertita molto con tutti quanti i ragazzi, con Matteo, con Luca, con Lucone e con Alice, ovviamente, la bellissima Alice. E molto bello tutto quanto e mi piacerebbe rivenire in un futuro magari. Sì, sì. Esatto, abbiamo diciamo che l'ultima puntata che ci concediamo prima della pausa estiva magari sarà l'occasione per fare un selfie tutti insieme con la classe di Matteo in diretta qui quando torneremo anche nella nostra amata bolla. Detto questo, proseguiamo la nostra puntata, mandiamo un altro pezzo e poi torniamo con le nostre consuete rubriche che ci accompagnano e quello che inizia il weekend. Non dimenticare mai chi sono, anche tra miliardi di persone. Dimmi che mi riconoscerai come un sorriso in mezzo a un prato di parole. Nello spazio oltre il muro del suono girano i pianeti all'infinito come lucciole dentro una piazza. Lassù non fa mai buio all'improvviso. Dovessi perdermi mille anni luce da qui, amore stringimi tienimi ancora così. Scusami se non sono riuscita mai nemmeno a dirti che tra miliardi di persone sai che io ti riconoscerei come una stella in mezzo a un cielo di cartone. Dovessi perdermi, perdermi mille anni luce da qui, amore. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger. Siamo quasi arrivati a conclusione della nostra puntata, ormai abbiamo perso il conto, ma prima o poi lo riaggiorneremo. Siamo stati fermi 2 settimane, ma siamo ritornati la settimana scorsa, belli carichi a pallettoni, e questa settimana siamo finalmente tutti presenti. La crew di Jolly Roger si è allargata, da 3 che ne eravamo abbiamo superato i 33 fortunatamente. Salutiamo nuovamente la scuola Orazio, che è soprattutto la terza E dell'Orazio, e proseguiamo la nostra puntata con le nostre consuete rubriche. Passo intanto il mic per vicinanza al nostro amico Luca, che ci racconterà le sue battute. Eccoci qua con le nostre offerte nei supermercati Carrefour. Gocciole pavesi a solo 1 euro. Nuova Monster di Lewis Hamilton a zero sugar, gusto uva a ben 50 centesimi, tra cui c'è anche la Ultra Gold. Finish Duo a 1,50 euro. E ora passo le battute. Cosa ci fa una bussola in un pollaio? Indica il pollo nord e il pollo sud. Il tempo cura ogni cosa, ecco perché dal dottore si aspetta per ore. Perché negli USA non rispettano il metro di distanza? Perché sono stati uniti. E adesso passo il mic a Pietro, ovvero a Grande Puffo. Perfetto, le battute del nostro amico Luca sono uno spettacolo. E si parlava settimana scorsa di tormentoni, anche di quello che avviene negli stadi, e noi introduciamo la nostra rubrica di calcio per questo pezzo. Torniamo in diretta con il pronostico delle partite del nostro amico Matteo. Molto Empoli pite l'Empoli, alla data Udine pite l'Udinese, Biotina Mila pite Biotina, Petta Verona pite Verona. Perfetto, e questi sono i pronostici del nostro amico Matteo. Come consuetudine, chi gioca e vince è pregato di passare in quel di Via Levanna numero 11. E passiamo un altro pezzo della nostra amica Carlotta, e poi piano piano andiamo verso quello che sono i saluti. Intanto nel frattempo è arrivato il nostro amico Otello, anche lui passato a trovarci, e niente, siamo veramente sold out oggi. Sei andata prima del previsto, e mi rimangono 2 euro e mezzo a Winston. E ricordo le nottate a non fare rumore per non svegliare tua madre, stavo sempre zitto. E nei locali ballavi con dei ragazzi ubriachi che non cercavano amore, ma storie da raccontare. E io che stavo a guardare la cosa più bella al mondo, senza trovare parole, senza poterci parlare. Sarebbe meglio essere superficiale, smettere di pensare, divertirmi e poi morire. Sarebbe stato meglio lasciarti andare, pur di avere la scusa di innamorarmi per uscire. E non non lo sapevo che eri così stronza. Senza farlo apposta ti ho trattata da regina. Tra un calo di pressione e un calo di autostima. Vuoi essere una donna ma fai la bambina. E ti ho portato a cena fuori dagli schemi. E ti ho portato al centro dei miei pensieri. Voglio perdere la ragione, perché sei la ragione dei miei problemi. Te ne sei andata senza salutarmi, ma con gli altri di che parli? Senza soldi manco per i pianti, e con le guardie che stavano un passo avanti. Rapporti pubblici su mezzi pubblici sporchi. Mi stringi forte le mani e mi guardi negli occhi. Prendi e mi baci, ma sempre tu che mi sposti, cancellando gli assi che collegano i nostri mondi. È che dentro di me c'è un bambino che urlerà per sempre basta. È che mio padre picchiava, mia madre urlava. E non lo sapevo che eri così stronza, senza farlo apposta. Ti ho trattata da regina, tra un calo di pressione e un calo di autostima. Vuoi essere una donna ma fai la bambina. E ti ho portato a cena fuori dagli schemi. E ti ho portato al centro dei miei pensieri. Voglio perdere la ragione, perché sei la ragione dei miei problemi. E ritorniamo in diretta, sempre dal Brancaleone. Questo è Jolly Roger, siamo alla fine della nostra puntata. Abbiamo parlato dei selfie, è stata una piacevole chiacchierata in compagnia questa volta anche della nostra amica Carlotta, che come promesso tornerà a trovarci. E ora andiamo direttamente con i saluti finali, quindi io auguro a tutti e a tutte un buon weekend. Se volete passare qui dal Branca, ci sono diverse iniziative, soprattutto questa sera. E appunto saluto tutti gli amici e tutte le amiche del Branca e tutti quelli che sostengono anche il Branca. Saluto tutti gli amici e tutte le amiche di Pirate Radio, ci potete riascoltare tramite podcast. E buon weekend a tutti e tutte. Ciao a tutti. Ciao a tutti, un grande saluto a agli amici di mio fratello che saluto, e un grande saluto al caposala del Winner House, Daniele. Un bacione a tutti e spoiler ufficiale, mi farò la console da DJ. Bomba. Ciao a tutti, soprattutto al cosiddetto Pietro, che oramai non serve più perché tanto ci pensa Luca che si fa anche la console da DJ. E quindi salutate Pietro che è l'ultima puntata. Ciao a tutti, sono Otello. Perfetto, casomai gli passa, porta giusto il microfono e il computer. Ciao a tutti. Ciao. E ora giustamente l'ultima dolce in fondo, Carlotta, che ci è venuta a trovare e ci ha soprattutto sopportato. Ciao ciao, ciao a tutti. Lui invece è voce impostata. Ciao a tutti, alla prossima e non mi date buca. Buona radio a tutti, dico solo questo. Bella, buona serata a tutti, è stato un piacere soprattutto per chi ci ha ascoltato e per chi ci riascolterà. Buon weekend a tutti. Setting sun, dying heat, flooding over me, just you and nobody. Where I wanna be, everyone starts to leave. I pull you closer to me. Feel untouchable, out of reach of shadow light. We're just animals, slowly losing track of time. In your ocean eyes, chasing gold, golden nights in paradise. I-